Ma io leggo che questa clausola esiste e conoscendo un po' il modo di lavorare della Fiorentina e dei Della Valle, credo che loro non intendano fare deroghe più di tanto rispetto a quella clausola. Quindi mi sembrerebbe strano difficile. Alla fine che si possa pagare una penale così rilevante per acquisire un allenatore, oltre a un contratto magari biennale che chiamerebbe comunque tanti soldi. Pier, ti ringrazio, sentiamo domani. Ciao ragazzi, saluti. Io ringrazio ciao. Anche Marco Fassone, grazie davvero di essere stato con noi. Grazie a voi, un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Tutti convocati. Recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. Fabbrica 2.4, viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Tutti i sabati con voi in diretta qui su Radio 24, la compagnia dei conti della Belva, cioè Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli, tutti i sabati dalle 10 alle 12, perché i conti della Belva lo sapete, ma comunque ricapitoliamolo, perché si tratta di spiegare a voi, noi, ma soprattutto di dirci voi in diretta chiamando, ma è vero o meno che la ripresa italiana è così forte come dicono? È vero o meno che lo Stato non è vero che spreca tanti i suoi soldi? È vero che paga i suoi debiti? È vero che non è vero che paghiamo troppe tasse? Insomma, un inizio di fine settimana dalle 10 alle 12 in diretta con un po' di sana indignazione. I conti della Belva, mi raccomando, ascoltateci. Tutti convocati. Abbiamo, ed è un enorme piacere, l'allenatore campione d'Europa di basket, tricampione d'Europa di basket, Sergio Scariolo. Buongiorno coach, grazie. Buongiorno, grazie a voi. Permetti innanzitutto di fare i complimenti, un sacco di complimenti, perché una volta è difficile, due è difficilissimo, tre è qualcosa che entra nel libro sacro, no? Grazie, sì, effettivamente questa è stata un po' speciale perché avevamo moltissimi giocatori fuori, dei più importanti, non era per niente previsto che potessimo arrivare fino in fondo, invece pian pianino siamo cresciuti e abbiamo giocato con molta intelligenza e molto sangue freddo i minuti importanti delle partite, soprattutto in quarti, in semifinale, e siamo arrivati in finale dove abbiamo giocato una partita buonissima dall'inizio alla fine. Abbiamo anche vinto con forse addirittura la finale con un punto più di facilità di quanto pensassero. Di quanto pensassero tutti, vista la Lituania che era arrivata fin lì, ma mi sembra siate stati bravissimi a spegnerla nel primo quarto, anche usando quelle difese tattiche che a me sarebbe tanto piaciuto vedere anche nell'Italia. E nel primo quarto, anche all'inizio del terzo quarto, che non è mai stato forse il campionato un nostro momento particolarmente brillante, e viceversa. Ritornando da più 8 a più 15 brevemente, credo che gli abbiamo levato ancora più energia, no? Rispetto a quello che avevano trovato un po' per strada per rimontare l'inizio altrettanto forte che avevamo avuto, per cui una volta che abbiamo recuperato quella distanza, senz'altro è stato tutto un po' più in discesa. Coach, tre titoli europei, è banale sempre chiedere qual è il più bello dei tre figli, perché la risposta è sempre la stessa, ogni figlio è bello allo stesso modo, però sono tre titoli diversi. Sì, senz'altro lo sono, perché il primo era il primo e non si era mai vinto, e quindi c'era un'aspettativa ormai quasi atavica, no? Sì. Finalmente di questo titolo europeo che si resisteva tanto. Secondo, è stato difficile. Non è stato molto bello per la qualità del gioco che abbiamo espresso. Io credo non ci sia mai stata né prima né dopo una squadra nazionale che abbia giocato così bene per 15 giorni di fila. proprio a livello di anche di estetica, se vogliamo, della qualità della pallacanestro. E questo è stato sicuramente il più speciale per la relazione talento-risultato. Non c'è dubbio che in questo senso è stato sicuramente il più l'estetico più produttivo, più effettivo, il più bello esteticamente. Di questo cosa le resta? Ma sicuramente il fatto che abbiamo trovato molto presto una buona chimica con un'accettazione eccellente dei ruoli da parte di tutti i giocatori, che mi ha permesso di preoccuparmi poco, come viceversa ho dovuto fare in altre edizioni, dell'aspetto gestionale e di preoccuparmi molto di più approfondendo la parte tattica, che in effetti anche questo è stato un bel sollievo, perché effettivamente quando non devi preoccuparti troppo di tenere tutti carichi, presenti, vivi, anche a dispetto delle scelte che dovresti fare per il miglior rendimento tattico, puoi pensare solo a fare le cose che pensi ti possano far vincere, e così è stato. Da questo punto di vista è stato anche un pelino più facile rispetto alle altre edizioni, quando avevamo una massa di ego, di personalità, di stelle che poi ci ingolfavano anche a volte. Questo mi permette di fare una domanda generalista, se me lo consente. In tutti gli sport, anche quando parlo con gli ascoltatori sul calcio eccetera, tutti dicono ma Mourinho, ma Ancelotti, ma è facile vincere con i grandi giocatori. Io continuo a ripetere che senza grandi giocatori primo non vinci. Seconda cosa, allenare questa quantità di ego, allenare questi contratti così pesanti, allenare giocatori così importanti è qualcosa di diverso rispetto ad allenare una squadra di calcio, di pallacanestro, di pallavolo, di un altro sport. Sì, è vero, sono difficoltà diverse, alcune più gestionali, altre più tecniche. Non c'è dubbio che in primo luogo ottenere il rispetto di questi giocatori è molto più difficile, perché i giocatori che hanno avuto allenatori o che hanno avuto esperienze di squadre o con compagni di squadre di livello medio buono eccetera, ovviamente sono meno esigenti, ti puoi permettere, così forse neanche si accorgono se fai qualche errore, di vedersi grandissimi campioni sono talmente abituati ad avere anche i grandissimi allenatori, grandissimi compagni di squadra eccetera, che a livello di conoscenza del gioco, della materia, devi filare molto dritto, perché perdere credibilità è un problema anche a livello di gestione. E poi effettivamente, quando soprattutto ce n'è diversi all'interno della stessa squadra, ottenere che qualcuno, perché è doveroso che sia, si sacrifichi in un ruolo, diciamo, che magari non gli calza proprio a pennello, ma che è necessario per il successo della squadra, spesso è difficile. L'abbiamo ottenuto nelle altre volte ed è stato molto bello. Ripeto, quest'anno forse la problematica è stata molto più tattica rispetto che gestionale. Avrei ancora due domande, una personale invece, quella generale, molto personale. Quanto senso di rivincita c'è per lei in questo titolo? No, nessuno. A questo punto della mia carriera, ovviamente ci sono anni che vanno meglio e anni che vanno peggio. Tu hai come sempre una responsabilità molto superiore rispetto ai tuoi al tuo reale potenziale di intervento sulle squadre. Quasi sempre a posteriori, quando si vince il riconoscimento è molto più per i giocatori che per l'allenatore, e viceversa le responsabilità sono quasi sempre molto più per l'allenatore che per i giocatori. Per cui diciamo che assolutamente c'è solo guardare, godersi il momento e già pensare, guardare avanti e pensare alla prossima sfida. L'ultima cosa che le chiedo, coach, è l'Italia che ancora si duole. Abbiamo sentito in questi giorni anche Danilo Gallinari, sentiremo Beninelli, si duole per come è finita. Siamo rimasti delusi. La mia impressione è che non avessimo una difesa abbastanza forte ed organizzata per essere da titolo, però questa è la mia impressione. Ma senz'altro, l'Italia è vero che era molto più forte offensivamente che difensivamente, però devo dire la verità che il potenziale di tiro da tre punti della squadra, il talento individuale nell'uno contro uno con i suoi giocatori, da Gentile a Danilo, a Marco che è nominato, era talmente grande che in una partita secca, come è successo con noi, mettendo più di 100 punti, sì, potevano veramente battere chiunque. Quindi secondo me è stato comunque un passo avanti rispetto al passato. Chissà, diciamo, che il futuro non permetta già dal preolimpico un altro passo avanti per poter consolidarsi anche in quelle altre parti del gioco tanto decisive per il risultato che ancora possono migliorare. Coach, grazie, complimenti di nuovo. Sergio Scariolo, grazie, allenatore campione d'Europa con la Spagna. Devo dire che innanzitutto l'esperienza su libri di sport, sulle autobiografie, che oltre al valore del personaggio, dello sportivo, conta molto il fatto che l'autobiografia racconti cose vere, che non faccia sconti. Da questo punto di vista il libro di Marco è fantastico, e quindi insomma io vabbè lo consiglio. Ma ha finito il momento piazzista, ti chiedo se anche tu hai avuto difficoltà. No, che piazza, io dormo con i libri di Phil Jackson sul comodino, ogni tanto come li leggo random, cioè lo finisco e poi lo ricomincio da capo, perché sono letture che a me fanno impazzire. Comunque, detto questo, se a proposito di sonno, se anche tu hai dormito poco per maledetto match, pochissimo, sicuramente c'era e c'è ancora tanto nervosismo, perché comunque avrei voluto, cioè almeno credevo veramente che potessimo fare qualcosa di più, come magari arrivare in finale, sicuramente vincere l'Europeo, e sicuramente c'è un po' di amaro in bocca, quindi questo mi dispiace. Alla sera sicuramente ho fatto una fatica incredibile a dormire, però comunque dopo un giorno e mezzo dovevamo giocare contro la Repubblica Ceca, quindi a quel punto era importante, diciamo, il riposo per poi vincere quella partita che ci ha permesso comunque di qualificarci per questo preolimpico. Però sicuramente il nervoso purtroppo ancora c'è e mi rode tanto. Senti Marco, ieri abbiamo avuto ospite a questi microfoni Sergio Scariolo, sì, che è intervenuto, abbiamo parlato della sua terza vittoria europea, della Spagna, eccetera eccetera. Poi gli ho chiesto dell'Italia, ma non ti sembra che forse il punto debole dell'Italia fosse il fatto che non aveva una difesa a livello anche tattico preparata? E lui è partito dicendo: ma l'attacco era fortissimo, poteva vincere qualunque partita, l'Italia sicuramente ha fatto un passo avanti, adesso dovrà fare un altro passo avanti nel migliorare certi aspetti del gioco. Questa è la risposta. No, condivido pienamente. Vabbè, prima di tutto faccio complimenti a Sergio, perché comunque è riuscito a vincere un altro europeo. Nel senso, sono contento per loro, però noi avevamo battuto anche la Spagna, quindi c'è ancora un po' più di nervoso, però niente, noi sicuramente siamo stati quest'anno una squadra dal punto di vista offensivo molto importante, nel senso che avevamo tanto talento, tutti i giocatori comunque hanno dato il proprio hanno messo, diciamo, la propria mattonella per fare il meglio questo europeo. Secondo me dopo la partita con la Turchia c'è stato sicuramente qualcosa di importante, ci siamo parlati tra di noi e c'è stata una reazione importante da parte di tutti quanti, quindi anche la difesa, diciamo, anche se sono state, diciamo, alcune pecche, però diciamo questi errori, diciamo, fanno anche parte del gioco, quindi però che dire, dispiace di non aver vinto questo europeo, perché ci credevamo tutti quanti, avevamo acceso qualcosa di importante anche in Italia, grazie anche a Sky, sono contento sicuramente per tutti i tifosi che ci hanno seguito, infatti le ringrazio tutti quanti, perché il calore lo sentivamo veramente tanto, però ripeto, alla fine non abbiamo vinto e alla fine conta solo vincere, quindi sicuramente dispiacere c'è tanto. Aspettiamo il preolimpico magari a Torino. Pierluigi, vuoi aggiungere qualcosa? Per no, ti do appuntamento per oggi. Esatto, parlo, noi ci vediamo dopo, stai calmo. Ci vediamo dopo, no, io devo dire che quello che rimane, io sono appassionato di basket, non sono un esperto, però quello che mi sembra che sia rimasto, al di là della fragilità difensiva, delle rotazioni non chiarissime, del fatto che siamo stati più potenza che controllo, certamente più attacco che difesa, e questa cosa l'abbiamo pagata, però c'è stata secondo me la disponibilità che gli tutti i giocatori italiani che giocano nelle NBA, sì, gli americani tra virgolette, hanno dato a questa squadra. Mi sembra che questo sia un fatto oggettivo, al di là di Datome che è stato ovviamente più sfortunato dal punto di vista fisico con l'infortunio, però mi sembra che la novità di questo europeo sia stata questa, cioè che rispetto al passato c'è stata un'integrazione molto più forte e molto più profonda, non so se sei d'accordo Marco. perfettamente condivido pienamente. Infatti quest'anno si era acceso qualcosa di particolare, quindi è stato bello così. Sicuramente ci sono ancora cose da migliorare sia dal punto di vista difensivo, comunque anche dal punto di vista offensivo, però siamo usciti a testa alta, questo sicuramente è stato importante, ma non siamo riusciti a vincere, questo sicuramente dispiace. Ciao Marco, Poker Face. Grazie. Diamo l'appuntamento in via San Pietro a Porto per i milanesi. Fai l'annuncio, Pardo. Alle ore 18 c'è anche il professor Mamoli che ha scritto il libro con Berinelli. Io farò il formatore, l'appassionato, l'uomo grosso, ecco. E parleremo di Poker Face alle 18 alla Mondadori di via San Pietro all'Orto a Milano. Vabbè, ciao Marco. Ciao, grazie. Ciao Marco. A dopo. Ciao.